Buonasera, dottore. Buongiorno, dottoressa. Pronto? Sì, sì. Ci siamo un po'... Qua siamo dottoresse, infermiere, sì, giornaliste, conduttrice. Mauro. Sì, buongiorno, salve, ascolti, niente. Bene, direi che è importante. Buongiorno, dottoressa, grazie. Ma adesso non so, dipende. Non parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Allora, l'estate è certamente il momento giusto per accantonare preoccupazioni e stress generali, però su alcune questioni che riguardano la nostra vita economica magari non è consigliabile abbassare completamente la guardia. Parliamo ad esempio di un tema, non tanto da spiaggia probabilmente, ma che comunque riguarda tutti noi, e forse è il caso anche sotto l'ombrellone di dedicare qualche momento di riflessione a questo argomento: il risparmio. Allora, due giorni fa è stata presentata a Torino l'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani, indagine 2015. È un progetto del Centro Einaudi e del gruppo Intesa San Paolo, basato su interviste effettuate dalla Doxa fra gennaio e febbraio di quest'anno a 1076 famiglie detentrici di conto corrente bancario o postale. Sono emerse delle conclusioni molto interessanti. Io non ve le anticipo perché ve le racconto tra un po', ma vorrei anche che questa indagine fosse arricchita dalle vostre testimonianze, quelle che arrivano a Cuore Denari. Voi, vi chiedo subito, come valutereste in questo momento la vostra condizione economica? Da un anno a questa parte, che cosa è cambiato? Le vostre scelte di risparmio e di investimento si sono modificate in qualche maniera perché è cambiata la vostra condizione lavorativa, professionale, familiare? 800 24 00 24, vogliamo avere tante informazioni da parte vostra, perché poi le commenteremo con i nostri ospiti nella prima parte di Cuore Denari. Nella seconda parte della trasmissione stamattina ci occuperemo sempre di estate, ma dal punto di vista dei bambini e di come riuscire a far loro affrontare queste giornate di forte afa e alte temperature nel migliore dei modi possibili. Una particolare attenzione deve essere rivolta, lo sappiamo, ai bambini piccoli e agli anziani più soggetti ad andare incontro a rischi legati alla disidratazione. Sono le parole di assoluto buonsenso del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, e noi proprio alle attenzioni da seguire coi più piccoli ci dedicheremo a partire dalle 12. Quindi anche su questo argomento 800 24 00 24 se volete cominciare a prenotare i vostri interventi, se avete delle domande da rivolgere al nostro esperto. I risparmiatori italiani non vedono l'ora di lasciarsi la crisi alle spalle, ma restano molto prudenti e fanno i conti con nuove priorità ed esigenze. È quanto emerge dall'edizione di quest'anno dell'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2015, presentata dal Centro Einaudi e da Intesa San Paolo il 21 luglio scorso a Torino. Non stupisce che cautela resti per la maggior parte dei nostri connazionali la parola d'ordine, anche perché aumenta, seppur di poco, il numero di chi si dichiara in difficoltà ad arrivare alla fine del mese. La crisi economica non sembra quindi ancora aver allentato del tutto la sua morsa. Lo percepiscono in particolare le donne e i giovani sotto i 25 anni, che riscontrano sempre maggiore difficoltà a conquistare una propria indipendenza. In generale, il 51% delle famiglie, nel 2013 eravamo a quota 56, dichiara ancora di sentirsi costretta a ridurre il proprio tenore di vita. Eppure, in molti casi, si continua a risparmiare e si registra un aumento delle famiglie che riescono a farlo, dal 38,6% del 2012 al 43,7% di quest'anno. La capacità di affrontare un evento imprevisto è al primo posto, con il 48% delle risposte, nella lista dei motivi per cui, per gli italiani, il risparmio resta un valore essenziale. Al secondo posto c'è il futuro dei figli, 23%, che ha sostituito, nella scala delle priorità, l'investimento sulla casa. Cambia anche il modo di gestire il proprio denaro. E le nuove scelte di investimento premiano sempre più spesso il risparmio gestito, negli ultimi due anni cresciuto dal 9 al 12%, a discapito delle care vecchie obbligazioni, la cui quota è in continua flessione, ormai passata dal 29% del 2007 all'attuale 20%. Prima di fare una scelta, quasi la metà degli intervistati ritiene determinante il parere di amici, familiari o colleghi. In due casi su tre, la banca continua ad essere un punto di riferimento essenziale a cui rivolgersi prima di investire il proprio gruzzolo. Questa era la sintesi estrema di questo rapporto, che è molto articolato e molto ricco di dati. Noi più tardi con il responsabile del centro studi di Banca Intesa San Paolo, Gregorio De Felice, andremo nel cuore di questa indagine, ve ne racconteremo altri risvolti, ma prima vogliamo commentare un po' meglio le scelte che fanno gli italiani, che hanno fatto almeno sulla base di quanto appurato da questa inchiesta. Lo avete sentito nel 2015 in questa scheda riassunta, appunto in questa scheda barra riassunto che è stata elaborata dal nostro Marco Lombardo. Nel 2015 sono aumentati i risparmiatori, più 5% rispetto al 2012. La cautela è sempre la parola d'ordine che anima l'atteggiamento degli italiani, però si è anche ridotta l'incertezza che congelava le decisioni delle famiglie, anche se appunto la prudenza prevale. Cresce il risparmio gestito, fine della crisi, sicurezza del lavoro e tranquillità pensionistica sono le tre aspirazioni della middle class italiana, della classe media. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Raccontatecelo all'800 24 00 24. Cosa è successo dallo scorso anno ad oggi? Vi ritrovate, secondo la vostra percezione, più o meno ricchi? In che condizione vi trova questa bollente estate 2015? Avete modificato la quota che riuscite a fatica a risparmiare? Vi siete dati un metodo di risparmio diverso? Vi siete dati obiettivi specifici? Quali sono le vostre priorità quando vi guardate allo specchio e vedete di fronte a voi riflessa la vostra immagine di risparmiatore o risparmiatrice? Vorreste poter risparmiare di più, ma con grande frustrazione fate fatica e l'ordinaria amministrazione finanziaria casalinga riesce, vostro malgrado, sempre a prendere il sopravvento sulla formichina che è in voi? Le vostre considerazioni stamattina le faremo commentare intanto ad Andrea Ragaini, responsabile della divisione Private Relationship Manager Banca Generali. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ho detto tutta correttamente questa lunga carica? Perfetta. Non la ribadirò più e andrò dritto poi Andrea Ragaini, Banca Generali. Saluto e ringrazio anche per essere con noi Fabio Perna. Dottor Perna è consulente finanziario indipendente, titolare dello studio di consulenza BIM Aney, ha degli studi a Roma, a Milano, fa tante cose. Dottor Perna, buongiorno anche a lei. Buongiorno Deborah, a te e agli ascoltatori. Allora, intanto qua, come al solito, siccome siamo sempre pieni di pregiudizi, io all'inizio avevo detto, mi rendo conto che questo non è un tema tanto da ombrellone e vacanza, e invece ancora una volta gli ascoltatori mi stupiscono, perché in molti sono già pronti a raccontarci le loro considerazioni, la loro situazione e quello che avvertono di questa condizione economica che hanno e se è cambiata da un anno a questa parte. Allora, prima di partire con le domande previste per Andrea Ragaini e Fabio Perna, io voglio sentire subito cosa ci racconta Raffaello da Spezia. Raffaello, buongiorno, benvenuto intanto, eccoci a lei. Io potrei anche darle, poi se me lo chiede, un'opinione anche di addetto ai lavori, perché sono un consulente finanziario da 22 anni, però la mia prima risposta gliela do come utente, come privato. Ma ci fa piacere veramente così ospitarla in questa duplice veste, Raffaello, quindi grazie, ci dica. Sarò sintetico, saluto tutti ovviamente. La prima veste è che, nonostante io non possa lamentarmi di un leggero guadagno che ho avuto negli introiti, quello che manifesta comunque la mia sensazione è che queste tasse ci occludano completamente e mettono in condizioni molte famiglie di essere in situazione molto critica, perché non sai come difenderti in molti momenti e basta una spesa imprevista che ti fa saltare il bilancio. Lo vedo anche su di me e anche sui clienti. Come ha detto ai lavori, invece, voglio segnalare una cosa che voi talvolta avete anche rimarcato in trasmissioni finanziarie ad hoc, che è quella sostanzialmente che risulta che nei conti correnti sia praticamente triplicata la giacenza. Ed è vero, io lo riscontro anche su molte posizioni dei clienti. Questa è un gravissima cosa, perché molti non pagano le cose più banali, riscontri per piccole operazioni, anche fatturate da piccole aziende. Le aziende non hanno gli introiti, non riescono che a faticare in questa situazione. Cioè un gatto che si morde la coda. Se noi tutti onorassimo i nostri debiti con regolarità, e a partire dallo Stato, come direbbe Oscar Giannino, Stato, ma anche noi privati teniamo i soldi sui conti che sono triplicati mediamente, e così non onorando i nostri debiti mettiamo in condizioni altri di essere in situazione molto critica. Aziende, certo, è un domino che non finisce più. Sì, io ho dei clienti che hanno disinvestito tutto quello che avevano nei conti aziendali per pagare gli operai, e sono in situazioni di chiusura o vicine alla chiusura. Infatti. Anche ieri un carrozziere mi ha detto: sono in situazioni critiche, non so come fare. Ma perché? Il cliente che ha pure i soldi sul conto non ti paga, non lo paga. Grazie Raffaello, lei ci ha già offerto uno spaccato di grande realismo, per cui siamo passati dalla ricerca scientifica condotta da Intesa San Paolo proprio alla nuda e cruda verità quotidiana. Allora, Andrea Ragaini, volevo cominciare con lei. Se vuole commentare anche il caso di Raffaello, ci fa piacere, perché questo rapporto indica che rispetto allo scorso anno si è cominciata a ridurre l'incertezza che congelava le decisioni delle famiglie. Il rapporto dice questo. C'è la ripresa economica, però la percezione di questi miglioramenti alle famiglie stesse deve ancora trasmettersi in pieno. Questo è quanto indica questo rapporto, no? E quindi questa percezione della ripresa, se anche c'è, fa fatica a trasformarsi poi in decisioni di spesa. E questo Raffaello un po' in qualche maniera ce lo raccontava. Lei come valuta questo quadro? Le vostre analisi confermano la ripresa economica che riguarda l'Italia, o fanno bene gli italiani a non fidarsi ancora del tutto e quindi, come dice Raffaello, tengono i loro soldi sul conto corrente, non pagano quello che devono pagare, per esempio vanno a fare un lavoro anche dal meccanico e prima di pagarlo ci pensano un bel po', perché più che altro hanno paura appunto dell'imprevisto che possa condizionare poi la vita della propria famiglia. Allora, siamo alla fine di un lungo inverno e anche particolarmente freddo, anche se per la verità parlare di freddo con questo caldo fa un po' sorridere. Ecco, come accade sempre alla fine della stagione, quando la neve smette di depositarsi e inizia a sciogliersi, il quadro d'insieme che abbiamo è ancora quello di un panorama tutto bianco. Prima di iniziare a vedere delle chiazze di erba e ancora di più per vedere dei fiori ci vuole un po' di tempo. Quindi questa è la situazione che oggi il rapporto ci fotografa. Gli elementi positivi ci sono senza dubbio, perché gli indici di fiducia delle famiglie che il rapporto ci presenta sono aumentati sopra la soglia di 50, che è la linea di demarcazione tra ottimismo e pessimismo. Gli ordinativi delle aziende crescono e di conseguenza iniziano a crescere anche significativamente i fatturati delle aziende, non solo per la ricostituzione delle scorte ma anche per nuova domanda da parte del mercato anche interno e non solo estero. E poi dopo tantissimi trimestri, 12 di flessione, la produzione industriale ha ricominciato a salire e visto che siamo in clima estivo i primi segnali sul turismo sono positivi. Quindi questi sono tutti segnali inequivocabili, ma poi, come diceva la mia mamma, quando si rimane scottati dall'acqua calda anche pure l'acqua quella fredda fa paura. Ecco, quindi noi siamo stati tanto scottati dall'acqua calda, perché tra il 2007 e il 2013 il PIL ha perso 8 punti percentuali, ma ancora di più la produzione industriale ha perso 21 punti percentuali e la capacità di investimento delle imprese 26. E poi, a prescindere dai numeri, come diceva prima, proprio in fase iniziale, il tema è entrato nella vita di tutti i giorni: la disoccupazione, il fatto che qualcuno dei parenti, amici, conoscenti non lavora, ha perso il posto di lavoro, la difficoltà ad arrivare a fine mese. Quindi questi elementi non possono essere dimenticati dall'oggi al domani. Però, per guardare il bicchiere dalla parte sempre mezza piena, io penso che questi dati possano iniziare a confortare sul fatto che i numeri hanno iniziato a dimostrare un'inversione di tendenza. Probabilmente a livello strutturale è cambiato qualcosa, quindi la nostra propensione alla spesa diventa un pochettino più bassa, ci vorranno tanti anni per tornare a livelli pre-crisi, o forse non ci torneremo in questa generazione, ce ne vorranno altre due o tre, però certamente la fotografia positiva è: i numeri iniziano a essere orientati dalla parte positiva, le famiglie italiane inevitabilmente sono ancora molto attente e molto caute, come avete detto voi, la cautela è la parola principale, però sono convinto che dopo una serie di numeri positivi anche la fiducia, che poi è la vera molla per sviluppare tutto quel tema della domanda, della spesa e di conseguenza anche dei mercati finanziari, possa poi riprendere. Numeri positivi ci sono, l'effetto trascinamento naturalmente è evidentemente lento. Allora, prima di sentire Fabio Perna, perché in realtà il tema sul quale volevo stuzzicarlo, che avevo preparato, ce lo offre su un piatto d'argento un'ascoltatrice, che è Giovanna dalla provincia di Roma, che salutiamo. Giovanna, benvenuta. Grazie anche a voi. Ci dica tutto. Dunque, io ho investito in una, ho avuto occasione in una casa, in un appartamento in cooperativa, facendo ovviamente molti sacrifici perché si deve dare un bel po' di somma, poi ho il mutuo eccetera eccetera, certo. E l'ho fatto ovviamente come fanno molti, per diciamo, per non proprio garantire, ma comunque dare la possibilità ai figli che non avranno, io ho due figli, una sta abbastanza bene, l'altra invece ha un lavoro precario, già 38 anni, non avrà mai pensione. Ecco, io su questa casa pago una, essendo la seconda casa, una sballangata di tasse. Sì, di tasse. Quando invece si dovrebbe pensare che la seconda casa, una seconda casa fatta con sacrifici per questa età, è anche, secondo me, un servizio, certo, sociale, se non sono, non so, 20 appartamenti, un servizio sociale, perché se no come si trova un affitto? Mica tutti hanno la casa in proprietà. Giovanna. Grazie molte. Allora, io la interrompo brutalmente perché sono le 11:26, fra tre minuti devo andare alla borsa e almeno un primo commento a Fabio Perna volevo consentirlo. Gli chiederei innanzitutto quali sono, se ha letto il rapporto in Audi Intesa San Paolo, se si ritrova nelle richieste, nelle esigenze avvertite fra le persone, fra i risparmiatori, se sono anche le stesse che lui avverte fra la sua clientela. Giovanna ha fatto una scelta precisa per suo figlio, ha comprato un immobile, magari fosse andata da un consulente finanziario, ma magari l'ho anche già fatto, Giovanna, e si è confrontata su questo argomento. Il capitolo degli immobili è molto delicato, no? Magari avrebbe potuto scegliere per questo figlio uno strumento finanziario che avrebbe potuto dare un po' più soddisfazioni e sarebbe stato meno pesante dal punto di vista fiscale, no, dottor Perna? Anche quello è un ragionamento molto delicato da fare con le famiglie. Che cosa ci dice a proposito di questa testimonianza che ha sentito, e i suoi clienti che cosa chiedono? Sicuramente la testimonianza, diciamo, che offre lo spunto per approfondire proprio il tema che poi è evidenziato anche nello studio Einaudi Intesa San Paolo, relativamente ad una perdita di appeal del discorso dell'immobile. Ovviamente parliamo comunque di un immobile non considerato come prima casa, perché lì i dati continuano ad essere in ascesa nonostante il periodo della crisi, quindi sì, comunque il popolo italiano continua ad essere un popolo che predilige vivere in mura di proprietà piuttosto che comunque seguire l'esempio di anche paesi esteri, dove invece la proprietà dell'immobile non è, tra virgolette, un culto come lo è nel nostro paese. È stato certamente fortemente rivisto il concetto dell'acquisto della seconda barra la terza casa. La testimonianza dell'ascoltatrice è emblematica. Uno dei fattori maggiormente influenzanti è la pressione fiscale che si è incrementata negli ultimi anni. Molto probabilmente una corretta pianificazione in questo momento può spingere a fare delle valutazioni di temporeggiare e magari comunque di gestire le risorse finanziarie destinate ad una aspettativa, un obiettivo che è assolutamente condivisibile, perché poi è ovvio che di fronte all'esigenza barra la volontà di un figlio comunque di avere un immobile è difficile poi per un genitore cercare di non accontentare un'esigenza del genere. Il timing per fare queste scelte o per attuarle concretamente molto probabilmente meriterebbe un'attenzione maggiore, soprattutto in virtù del momento fiscale che noi, esatto, attraversiamo. Lei che cosa suggerirebbe a Giovanna, magari di vendere l'immobile, monetizzare e scegliere uno strumento finanziario che possa garantire per un lungo periodo di tempo appunto un risparmio per questo figlio che vive una condizione anche professionale di precarietà, per cui forse l'immobile non è la miglior scelta per questo ragazzo, anzi magari poi si fa famiglia, mette su famiglia, va a vivere lì, quindi certamente l'obiettivo, come dire, è nobile, ma per la finalità anche pensionistica che Giovanna ha indicato, perché lei ha detto mio figlio probabilmente la pensione non la vedrà mai, forse è necessario dell'altro per questo ragazzo, che ne pensa? Diciamo che astrattamente molto probabilmente la soluzione migliore sarebbe quella della vendita dell'immobile e chiaramente la gestione delle risorse finanziarie tenendo conto del duplice obiettivo. Va considerato che il mercato immobiliare, questo anche lo studio che stiamo commentando lo conferma, non gode certamente in questo momento di ottima salute, per cui la vendita sì, la svendita direi assolutamente esatto. No, perché poi altrimenti ovviamente si creano altri tipi di problematiche. Tenga duro Giovanna, intanto già il fatto che sia riuscita ad occuparsi in questa maniera di suo figlio è una gran cosa, perché in realtà poi molti genitori magari all'ascolto sono frustrati perché non riescono neanche a fare questo. Allora noi ci fermiamo adesso, abbiamo la borsa, dopodiché ritorniamo a conversare con Andrea Ragaini, Fabio Perna, ci raggiungerà anche Gregorio De Felice, capo ufficio studi di Banca Intesa San Paolo, con il quale andremo anche ad analizzare altri aspetti di questo rapporto, cioè tutta l'analisi sulla classe media che sta mutando volto, è molto interessante. 800 24 00 24 il numero verde a vostra disposizione per i vostri interventi. Noi ci sentiamo tra pochissimo. Cuore e denari. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Beh, potremmo soldi, scomodare soldi, il solito vecchio caro proverbio, insomma i soldi non fanno la felicità, però insomma non averli anche non è che aiuti a vivere tanto bene. Ci siamo ritrovati in diretta, stamattina stiamo commentando il rapporto, l'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani che è stato presentato nei giorni scorsi a Torino, è un progetto del Centro Einaudi e del gruppo bancario Intesa San Paolo. 1076 famiglie detentrici di conto corrente bancario e postale intervistate fra gennaio e febbraio e che offrono uno spaccato di come se la passino adesso gli italiani, di che cosa pensino a proposito appunto del risparmio e come è cambiata la loro condizione da un anno a questa parte. Un po' forse si intravede la fine di un tunnel, si è ridotta l'incertezza che congelava le decisioni delle famiglie, ma prevalgono ancora cautela e prudenza. Nel 2015 rispetto al 2012 sono aumentati del 5% i risparmiatori, ma i motivi di frustrazione non cambiano. Come avete sentito ci sono ancora, il caso dell'ascoltatrice di Roma è emblematico e devo dire che ha suscitato anche un grande dibattito fra gli ascoltatori, perché tra chi commenta ma insomma ancora a 38 anni si fa mantenere dalla mamma, io vorrei dire a Luca da Milano che lei non conosce la situazione di questa famiglia, per cui magari questa persona ha fatto un miliardo di lavori e può essere stata anche molto sfortunata, perché poi l'ascoltatrice di Roma ci raccontava anche di avere un'altra figlia pienamente realizzata e soddisfatta della sua vita, per cui poi le situazioni sono diverse, bisogna conoscerle fino in fondo. A chi anche invece contesta il suggerimento che abbiamo dato, ma Deborah sei scema a consigliare la vendita di una casa per uno strumento finanziario. Allora non ho detto di investire in un derivato, in un mutuo subprime o chissà che cosa, magari banalmente la stessa cifra collocata anche negli anni passati in un BTP che garantiva una bella cedola periodica, forse era meglio che invece pagare le tasse su un immobile non occupato e che succhia soldi. Detto questo, adesso andiamo ad altri punti di questo nutritissimo rapporto. Buongiorno a Gregorio De Felice, capo ufficio studi del gruppo Intesa San Paolo. Buongiorno, buongiorno a tutti, soprattutto ai radioascoltatori. Grazie, alla conduttrice un po' meno perché non è tanto certo. Simpatica. Allora, noi siamo andati subito al cuore, diciamo, dei temi finanziari che abbiamo ritrovato in questo rapporto, dottor De Felice, ma c'è tutta la parte molto interessante legata all'analisi che avete fatto sulla cosiddetta classe media italiana, no? Dove si ritrovano molti di noi. Che cosa avete scoperto a questo proposito? Come sta cambiando il volto della middle class italiana? Bene, innanzitutto la classe media in Italia si è ristretta, cioè se consideriamo quella fascia di popolazione che ha un reddito intermedio, quindi intorno ai 2500 euro lordi al mese del capofamiglia, questa porzione di italiani che rappresentava più del 50% nel 2007 oggi è scesa a meno del 38%, quindi la crisi ha prodotto un effetto pesante sulle fasce di reddito e ha in qualche modo anche bloccato quello che viene chiamato l'ascensore sociale, sì, ossia la possibilità di passare da una classe di reddito all'altra. L'ascensore sociale è andato in questi ultimi anni essenzialmente in discesa, cioè dalla classe media si è scesi piuttosto che salire classi di reddito più alte, quindi dalla classe media verso ceti più poveri o legato alla perdita di lavoro, quindi alla minore capacità di reddito. Quindi questo è un dato che fa un po' da contraltare a quei segnali di ottimismo che richiamava in precedenza lei poco fa. Senta, nel 2015, dice il vostro rapporto, il numero di soggetti completamente indipendenti dal punto di vista finanziario si mantiene ai livelli del 2014. Nel confronto con l'anno passato si rileva un peggioramento della situazione per le donne e per le fasce d'età più giovani, cioè per coloro che hanno meno di 25 anni. Che cosa significa? Che cosa intendete con essere completamente indipendenti dal punto di vista finanziario? Chi collochiamo in questa fascia? Collochiamo in questa fascia chi giudica il proprio reddito sufficiente ampiamente sufficiente o appena sufficiente, quindi il senso dell'indipendenza di non avere bisogno di un aiuto dal proprio patrimonio, di non dover intaccare il proprio patrimonio oppure aiuto da parenti, amici e quant'altro. Questo è un altro segnale della ridotta mobilità sociale che stiamo vivendo in questo periodo in Italia, cioè c'è una minore uguaglianza di opportunità rispetto ad altri modelli economici, in particolare penso ai paesi scandinavi. Voi nel vostro rapporto parlate anche di un paese cash poor, house rich, povero in termini di cash, di contante, di denaro, ricco di case. Questo lo sapevamo. Allora, prima di farle commentare ancora meglio la statistica su questo tema, le faccio sentire cosa vuole raccontarci Francesco da Milano, perché vedo che stamattina sul tema casa si sono scatenati. Dottor De Felice, come hanno avuto modo di ascoltare prima anche gli altri nostri due ospiti che sono ancora con noi, Andrea Ragaini di Banca Generali e Fabio Perni, consulente indipendente. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi dato la parola. Niente, io volevo raccontare la mia storia. Io 7 anni fa ho acquistato il secondo appartamento, proprio a cavallo, diciamo un po' prima della crisi, un piccolo bilocale alle porte di Milano. Avevo fatto il secondo mutuo perché ne avevo già uno di 50.000 euro. E poi la crisi cosa significa? La crisi significa la moglie che ha perso il posto di lavoro, le tasse sulla casa, oltre il 57%. Certo. Non ha potuto mettere a reddito questo secondo appartamento, Francesco? L'ho messo a reddito, però se non sono affitto di 500 euro al mese, mi si toglie il 55%. Ok, quindi io ne guadagnavo 19.000 più altri 5.000 e rotti lordi. Ci paga il mutuo, ci paga le tasse, allora, non ne rimane niente. Mi rimanevano, guarda, avevo fatto il calcolo, 80 euro al mese, puliti. Con tutti lo stress di trovare un inquilino che ti paga. Altro problema, certo. Ecco. Poi aggiungiamo il bambino, 540 euro al mese il nido. Okay, insomma, la coperta è stretta. Francesco, lei aveva fatto questo investimento per integrare le sue entrate, non è stata una scelta vincente. Abbiamo capito perfettamente il senso del suo messaggio, Gregorio De Felice. La quota di famiglie che occupano una casa di proprietà in Italia cresce, secondo il vostro osservatorio, da circa il 76% del 2000 al 79% del 2015. Quindi, a seguito della crisi, si osserva una riduzione di chi ritiene l'immobile l'investimento migliore o più sicuro. Le tasse fanno paura o no? le tasse fanno molta paura, c'è un calo forte di interesse nei confronti della proprietà immobiliare, quello che diceva il signor Francesco è percepito da un'ampia parte della popolazione, c'è un calo di interesse del 20%, cioè il 20% in più di italiani considera l'investimento immobiliare un investimento molto meno attraente rispetto al passato. Perché? Perché i prezzi delle case sono diminuiti e soprattutto sono diminuiti i livelli di locazione, appunto gli ammontari di locazione, e fortemente aumentate le tasse sulla prima, ma soprattutto sulla seconda casa, dove c'è un cumulo di tassazione molto elevato, che peraltro, questo non è nel rapporto, non è tanto diverso da quello che c'è in altri paesi europei, ma in Italia non eravamo abituati, esatto, ad una tassazione così forte, e soprattutto la subiamo in periodo di crisi, quindi è una tempesta perfetta che ci risulta particolarmente indigesta. Tant'è vero che abbiamo un premier che ha colto la palla al balzo per far suo questo malcontento generale sulla tassazione sugli immobili e ha promesso che rimodulerà completamente la fiscalità sulla casa in questo super piano fiscale, in questo patto fiscale con gli italiani da 50 miliardi per il prossimo triennio. Non vediamo l'ora di vedere che cosa ha intenzione di fare. Grazie a Gregorio De Felice per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata soprattutto alla conduttrice. Meno volta. Si è salvato in corner, proprio sul finale. Grazie, grazie dottor De Felice. A presto. Allora, noi ci fermiamo, adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, dopodiché abbiamo un bel quarto d'ora pieno per spremere a dovere Andrea Ragaini e Fabio Perna per farci dare intanto uno sguardo da Andrea Ragaini sui mercati finanziari, quali potrebbero essere i prossimi fattori di rischio che potrebbero agitare le acque di azioni e obbligazioni nelle prossime settimane, perché insomma la crisi greca non è che si sia proprio chiusa del tutto, è certamente un focolaio costantemente acceso. Con Fabio Perna andremo anche a qualche suggerimento pratico per quegli investitori che stanno cercando di capire cosa poter fare da settembre per mettere a frutto, visto che i tassi di interesse sono ancora molto bassi, la borsa è salita molto, gli immobili danno le insoddisfazioni che danno, e allora i nostri soldi dove li mettiamo adesso? A tra poco. Cuore e denari. Caldo, come caldo questo sole, come calda la tua pelle che si brucia sulla sabbia. E non siamo solo noi a soffrire questa ondata di caldo, ma anche i più piccolini. Temperature elevate, tassi di umidità, le stelle portano anche i nostri bambini a soffrirne se non vengono prese le giuste precauzioni. Voi cosa fate per proteggere i vostri figli o i vostri nipoti da questa ondata di caldo, soprattutto i più piccolini che non sono in grado di dirci qual è il grado del loro malessere? Su questo giocate su un'alimentazione ricca di frutta e verdura, su una maggiore idratazione, evitate le uscite se non al mattino presto, la sera tardi, tanti suggerimenti di buonsenso che in realtà, guardate, non sempre tutti seguono a dovere. 800 24 00 24, noi ne parliamo dopo le 12. Una monetina a te, una te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina a te, una te, un'altra monetina. Una monetina dietro l'altra, insomma, piano piano si può arrivare anche a costituire un piccolo gruzzoletto, però insomma è molto faticoso, ce lo segnalano molti ascoltatori, ma insomma continuate a parlare di risparmio, ce lo aspettavamo anche questo atteggiamento, questo commento da parte vostra. Non arriviamo neanche alla quarta settimana del mese, come pensate che possiamo risparmiare? Invece guardate che ancora, dottor Ragaini, chiedo a lei una conferma, gli italiani sono tra i risparmiatori più attenti al mondo, lo stock di risparmio degli italiani è ancora molto alto e questo è il, come dire, l'ancora di salvataggio che ha permesso a questo paese di non finire in un dirupo negli anni passati, no? Come dire, regge anche la mole del debito pubblico molto consistente, ma per fortuna che abbiamo ancora gli italiani che riescono invece a mettere da parte qualcosa. Sì, la ricchezza italiana è uno dei valori più importanti che la nostra nazione ha, pensiamo che ci sono circa 9.600 miliardi di ricchezza complessiva delle famiglie italiane, circa 5.000 miliardi di immobili al netto di circa 1 miliardo di debiti e circa 3.600 miliardi di euro di ricchezza finanziaria nelle famiglie italiane. Quindi questo è un valore molto importante, perché quando si parla poi di debito pubblico in effetti occorre mettere di fianco anche il risparmio privato, e questo è uno degli elementi, come diceva lei, che ha salvato l'Italia nel corso di questi anni burrascosi di crisi europea. Detto questo, mi rendo conto che poi il tema che stiamo vivendo in Italia è un tema che porta dietro 8 anni di profonda recessione, con una forza finanziaria di molte famiglie che si è tanto indebolite, un'incertezza che è aumentata, una difficoltà di arrivare alla quarta settimana del mese, quindi diventa quasi un'offesa per alcuni parlare di risparmio. Però non dimentichiamoci che è un valore davvero tanto importante il fatto che l'Italia possa ancora sedersi in sede europea in modo dignitoso, è dovuto proprio alla forza finanziaria delle famiglie. Fabio Perna, allora intanto c'è un ascoltatore, Mario, che vuole sapere il dettaglio del nome della sua società, no? Che gioca un po' con le api, con il miele, lo vuole dire lei, così accontentiamo Mario che ce lo chiede. Bimoni Consulting SRL. Bimoni B-E-E-M e Aney, che è il con l'H, praticamente il miele in inglese. Mario, se vuole in privato poi magari glielo scriviamo. Volevo coinvolgere lei invece sul tema, su un altro segnale molto interessante che questo rapporto Einaudi Intesa San Paolo indica. Il rapporto lo chiama un segnale di normalizzazione, e noi siamo rimasti anche molto colpiti di questa definizione: il calo dell'interesse degli italiani per le tematiche di natura finanziaria. La quota di coloro che si dichiarano attratti da questi argomenti è passata dal 45,5% nel periodo pre-crisi al picco del 57,7% toccato l'anno scorso, e adesso è tornato a scendere intorno al 54%. Metà del campione che questo rapporto ha analizzato afferma di non spendere neanche un minuto del proprio tempo settimanale a questo scopo. Solamente poco più del 10% degli intervistati vi dedica circa un'ora a settimana. Perna, allora, voi magari sarete contenti perché avete più clienti a cui fare consulenza, però in realtà mi ha un po' frustrato questa statistica, perché mi sembra anche un po' di far male il mio lavoro. Non so lei che cosa percepisce da questo dato, ma perché non si riesce a scalfire questa tendenza? Io adesso capisco che certi temi sono difficili da digerire, ma occuparsi di economia e finanza quando si parla di se stessi è occuparsi della propria vita, della propria famiglia. La finanza è in tutto, nell'andare a fare la spesa, nel pagare le bollette, non solo di occuparsi di spread e mutui subprime. Che ne pensa? Diciamo che la frustrazione è condivisa. È un termine che condivido pienamente, anche perché poi, ecco, da una parte ci può essere la soddisfazione, perché ovviamente questo stato di scarsa affezione alla cultura finanziaria fa crescere comunque il ricorso ad un consulente esterno. Dall'altra parte però poi all'atto pratico noi spendiamo, soprattutto nei momenti iniziali di un rapporto professionale, tante ore per creare comunque una cultura finanziaria di base, che per noi è fondamentale per svolgere al meglio il lavoro di pianificazione finanziaria con i clienti. Quindi comunque c'è sempre il rovescio della medaglia. Certo. Per entrare specificatamente sul tema che giustamente sottolinea, forse anche il fatto di parlare di normalizzazione, perché ahimè in questo paese forse riteniamo che la normalizzazione sia il fatto di occuparsi ob torto collo maggiormente di tematiche di natura finanziaria quando abbiamo comunque grosse problematiche: default di bond, spread che si impenna, Brexit, piuttosto che altri temi che calamitano necessariamente l'attenzione, perché possono essere anche circostanze nelle quali poi si possono vivere problemi piuttosto rilevanti. Io ritengo che invece si dovrebbe tutti cercare di fare uno sforzo per creare una cultura finanziaria di base, perché poi non si parla del fatto comunque di essere degli economisti o di arrivare... Infatti, c'è sempre questo equivoco di fondo, no? Che bisogna sempre essere, come dire, a conoscenza della legge della domanda e dell'offerta, conoscere tutta l'opera di Adam Smith o di altri economisti. Invece qua parliamo proprio delle esigenze finanziarie nostre, ed è un tema ben diverso. Ben diverso. Io ritengo che l'informazione da qualche anno faccio assolutamente la sua parte, questa trasmissione ne è un ottimo esempio, ma ritengo che ormai per esempio sul web si possano acquisire facilmente tantissime informazioni. forse bisognerebbe lavorare, questo è anche un pochino proprio il sistema paese, su creare anche un po' un'incentivazione culturale a questo discorso, partendo probabilmente dalle classi più giovani, sulle quali ad esempio noi nel lavoro quotidiano vediamo comunque uno staccato diverso, cioè c'è un'attenzione maggiore. Del resto anche nello studio si cita il fatto che poi la principale fonte di informazione spesso è molto anche influenzata dal retaggio familiare, quindi è ovvio che molto probabilmente siamo un paese che per decenni è vissuto all'ombra del risparmio postale, comunque dei titoli di Stato che hanno garantito ottimi risultati, e quindi comunque la popolazione si è anche un po' appiattita su questo discorso e non ha mai sentito neanche l'esigenza di crearsi una cultura finanziaria che permettesse poi di andare anche al di fuori di quello che comunque per decenni ha rappresentato un approdo più o meno sicuro. Infatti, e questo lo si vede anche da un altro aspetto toccato da questo rapporto, che è quello della previdenza, la previdenza complementare, cioè consapevolezza diffusa che il tasso di rimpiazzo del reddito da parte delle pensioni future sarà basso, ma la previdenza integrativa non viene ancora affrontato concretamente, seriamente dagli italiani. Anche questo un po' possiamo considerarla una battaglia persa, ma non è persa la guerra. Magari su questo tema ci faremo una puntata apposita per più avanti. Allora, l'ultima considerazione, non riesco a sentire Tony da Verona perché voglio concludere con Andrea Ragaini. Tony voleva raccontarci che in realtà sul tema della crisi lui ha una riflessione particolare, lui ci ha guadagnato perché con il mutuo a tasso variabile adesso ha una rata praticamente estremamente conveniente. Tony, io condivido con lei questa felice esperienza come molti italiani, però insomma poi la rata si era impennata molto nel 2008, ce lo ricordiamo. Ragaini, per non preoccuparci troppo sotto il solleone in questi giorni e goderci le vacanze, ci dica un po' lei quali sono quei fattori che potrebbero agitare le acque dei mercati nelle prossime settimane, per cui evitando proprio di sorvolare sulle pagine di cronaca finanziaria dei giornali nei prossimi giorni, a che cosa dovremmo stare attenti senza turbare troppo appunto le nostre meritate ferie? Allora, partendo da Tony, il tema del rischio opportunità nella crisi c'è sempre, quindi verissimo che i tassi sono scesi tanto. Abbiamo un minuto, quindi lo sa, almeno riesce ad argomentare bene questa sua risposta. Allora, i problemi che ci troviamo davanti sono alcuni, i più importanti sono relativi al mondo dei tassi, alla Grecia e agli sviluppi geopolitici. Partiamo rapidissimamente dai tassi, ci sono dei percorsi di sviluppo dei tassi in Europa e in America differenti, c'è un grande appuntamento nel Federal Open Market Committee dei primi di settembre che potrebbe invertire dopo 9 anni una politica di tassi particolarmente bassi. Siccome l'America è sempre stato un faro per tutto il mondo nell'ambito dei tassi, questo è sicuramente un punto che potrebbe cambiare un orientamento importante che ormai si è consolidato in 9 anni. Il tema della Grecia, come dicevi tu, c'è il tema del 20 di agosto, che è la data finale in cui dovrebbe chiudersi l'accordo per liberare finalmente questa terza tranche di aiuti alla Grecia. Ormai il percorso sembra in discesa, ma in questa crisi abbiamo visto che i percorsi che sembrano in discesa poi diventano molto irti nel brevissimo periodo, quindi un po' di attenzione anche alla chiusura di questo faticoso accordo. E poi non dimentichiamoci che si tratta sempre di un accordo che prevede una linea di credito ancora di 89 miliardi di euro, che poi però giungerà a scadenza, e il tema della Grecia ce lo ritroveremo sistematicamente in autunno. 20 secondi, il tema geopolitico? Il tema geopolitico è un tema che ci accompagna purtroppo nel corso degli ultimi anni. La sicurezza sul versante geopolitico non è mai acquisita, ci sono dei temi che purtroppo ci hanno accompagnato e il timore che ci possano rivedere altri scenari negativi, e questo ci mette un po' di ansia. Grazie a Fabio Perna, ad Andrea Ragaini, insomma antenne dritte anche durante l'estate, ma naturalmente belli spalmati di crema per goderci anche il sole. Grazie Giornale Radio, noi torniamo subito dopo, parliamo del caldo e dei nostri bambini. Cuore e denari. Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino. Stavo raccontando ai ragazzi della redazione, a Marco Lombardo, a Isotta Scenna, ad Alessandro Roccabella, Andrea Roccabella, Andrea, qua ancora sai, non ci siamo, Andrea lavora con noi da poche settimane, di mia nipote che fa la scimmia, la piccolina ci fa ammazzare dalle risate. Occupiamoci di bambini adesso, anche loro sentono il caldo, ma per così dire non sono attrezzati ad affrontarlo. La capacità del corpo di adeguarsi al caldo e all'afa nei piccoli è ancora imperfetta, per questo è importante usare come sempre il buon senso, ma anche conoscere eventuali segnali che potrebbero rappresentare dei campanelli d'allarme. E allora, se avete bambini piccoli, se siete genitori, nonni o zii come me, raccontateci quali espedienti mettete in pratica per tenere al fresco i vostri piccolini, ma chiamateci anche per avere indicazioni e consigli riguardo all'alimentazione, all'idratazione, alle attenzioni da seguire durante viaggi e spostamenti. Proprio oggi su Facebook notavo un post di un nutrizionista che diceva invece delle merendine, naturalmente è il momento migliore per il cocomero, per la loro merenda, ma magari non sono di quel gusto là. Raccogliamo tutti i nostri dubbi e salutiamo il nostro ospite di stamattina, il professor Pasquale Di Pietro, direttore del Dipartimento di Emergenza al Gaslini di Genova. Professor Di Pietro, buongiorno. Sono in linea, buongiorno. Grazie. Come andiamo a Genova a temperature? La temperatura non è proprio l'ideale, ora si è creato un po' di adattamento perché l'organismo è da giorni che va avanti così, per cui piano piano l'organismo si adatta. È che siamo un po' tutti un po' più rallentati con questo caldo, un po' il bradipo si è impadronito di noi, professor Di Pietro. Però intanto parliamo dei piccoli, 800 24 00 24, raccontateci come vi state comportando con i vostri bambini con queste temperature, cosa state facendo per aiutarli anche a gestire questa situazione. Per qualcuno dei più piccoli sarà anche inedita e soprattutto qualche volta non ce la sanno spiegare la loro condizione di malessere, perché professor Di Pietro, i bambini soffrono il caldo ma reagiscono in modo diverso rispetto agli adulti e certamente rischiano di più. Anche il ministro Lorenzin lo ha ricordato nei giorni scorsi, raccomandando di prestare particolare attenzione ai piccoli che, come gli anziani, sono più esposti al rischio di disidratazione, no? È corretto? Direi di sì, perché lo vediamo anche dai casi che abbiamo avuto in questi giorni in pronto soccorso, cioè il colpo di calore quando va avanti e quando non viene riconosciuto poi porta effettivamente alla disidratazione, e questa può essere una problematica importante. Ecco. Sudano di più degli adulti bambini, vero? Sì, sudano di più, hanno però nel complesso meno, diciamo, compensi e soprattutto a volte si dimenticano di bere, questo è importante. Infatti. Quindi bisogna aiutarli, ricordarglielo, e soprattutto i bambini piccoli non riescono sempre a far capire che hanno bisogno di bere. Non riescono a comunicare alla mamma che hanno sete, non riescono a disperdere efficacemente il calore, per questo è importante dare loro spesso da bere, anche se appunto non fanno una richiesta esplicita. Quindi acqua mi pare abbastanza naturale, professor Di Pietro. Poi succhi non zuccherati. I succhi non zuccherati, perché questi succhi oppure le bevande gassate alla fine finiscono per essere controproducenti per i bambini, quindi l'acqua normale, talvolta l'acqua del rubinetto fresca, è sicuramente un buon rimedio. Frullati e centrifughe per i piccoli vanno bene, fino a che età Guardi, consiglio a tutte le mamme di usare proprio le centrifughe, perché fanno delle buone spremute. L'arancio è quello meno tollerato perché è più pesante, però ci sono tante centrifughe, tanti frutti, la mela, la pera, la banana, i kiwi, si possono anche mescolare, vengono, e danno anche delle vitamine, quindi aiutano tanto. Ecco. Senta, professor Di Pietro, a proposito di liquidi da dare ai bambini allattati al seno, è necessario dare anche il biberon con un po' di acqua, quindi integrare il latte materno? C'è tanto dibattito su questo. Il latte materno il 90% è acqua, quindi teoricamente non ce n'è bisogno, però insomma è che non bambino, è tanto fresco, quindi non dà tanto ristoro, ecco, anche per loro. Però dare poi un po' di acqua col ciuccio serbatoio, magari piccole quantità durante il giorno, può essere utile. Qualche volta qualche lattante lo fa capire esplicitamente, però in ogni caso la mamma ha dei segni, per esempio se vede molto asciutte le labbra, se vede la linguetta proprio asciutta, però al di là di quello effettivamente il latte materno, soprattutto se la mamma lo dà continuamente, perché questa è una tecnica molto utile per la produzione del latte materno, non ce ne sarebbe effettivamente bisogno, perché è acqua al 90%. In quel caso è la mamma che non deve dimenticarsi di idratarsi bene, professor Di Pietro. Idratarsi bene e di dare da mangiare al bambino. Qualche volta però con latte materno, soprattutto anche la mamma è stressata, stanca, per cui possono succedere delle dimenticanze, allora qualche volta effettivamente è meglio integrare con un po' d'acqua. Insomma, non fa sicuramente male, assolutamente, perché acqua, poi la elimina con la sua pipì. Ecco, nonostante queste raccomandazioni suonino anche fin banali, no? In estate invece, e il professor Di Pietro ce lo diceva proprio poco fa, non è infrequente che i bambini finiscano al pronto soccorso per colpi di calore e disidratazione, quindi fate attenzione. Ma ne arrivano davvero così tanti, professore? Ma diciamo che questa, tra il giugno e luglio c'è stata una differenza consistente, quindi il dato epidemiologico ha rilevanza. Io vedevo per esempio anche dalle disidratazioni nel mese di luglio rispetto a giugno sono fortemente aumentate, e aumentate anche, diciamo, le infezioni tra virgolette, che sono probabilmente in maggior misura virali, e abbiamo avuto più gastroenteriti nel mese di luglio. Certo. Sicuramente bisogna poi, adesso arriveremo anche a quello, considerare lo sbalzo di temperatura che spesso ai piccoli si fa subire anche con un'attivazione un po' molesta di un climatizzatore, oppure magari basta la passeggiata in un supermercato che dura 3 secondi e lì ecco che si provoca il danno. Quindi non sottovalutiamo tutte queste situazioni, ma intanto gli sbalzi di temperatura, ragione lei, sono veramente negativi, per cui quasi conviene giocare su delle temperature costanti se non si possiedono i cosiddetti climatizzatori o condizionatori, non andare a temperature molto basse, sempre sui 24, 25, 26 gradi, cioè non esagerare. Se si hanno dei ventilatori non metterglielo proprio in faccia, però funziona. Certo. Ecco. 800 24 00 24, raccontateci i vostri rimedi, come vi comportate con i vostri bambini, frullati, centrifughe, succo non zuccherato, acqua, come riconoscete il momento in cui il vostro bambino, proprio magari quando questo è proprio piccolino, in cui ha bisogno, avete un escamotage, un segreto da condividere anche con altre mamme e papà che non sanno bene come affrontare questo caldo feroce che è arrivato. Adesso poi ovviamente siamo pronti a lamentarci il prossimo weekend quando arriveranno le temperature più fresche. Però, professor Di Pietro, allora, rischio disidratazione, no? Prima di finire al pronto soccorso, quando siamo proprio in quella condizione al limite, come facciamo ad accorgerci che c'è qualche sintomo che non va trascurato? Come possiamo capire se la situazione è a rischio? Intanto l'irritabilità, questo sicuramente è notevole, il bambino è un po' irritabile, poi secondo me anche un pochino più moggio, io userei questo termine, no? I casi estremi è quando inizia a essere un po' confuso, ma a volte è difficile accorgersi. Però lo stesso adulto, non è che il colpo di calore lo sente anche l'adulto, per cui quando si accorge anche l'adulto inizia ad avere un po' di confusione in qualche modo, deve intervenire, deve cercare di fare tutta quell'azione preventiva che si può fare. Quindi prima di immaginare che sia un capriccio, valutiamo che non sia un malessere reale. Tenga conto che ci sono delle mamme che a volte esagerano anche nel mettere degli indumenti pesanti, più il bambino è vestito leggermente, lino, cotone, meglio è. Cercare anche nei vestiti, cercare soprattutto se si va fuori, usare vestiti chiari, non scuri, perché questi sono evidentemente assorbono i raggi solari, mentre i vestiti chiari li respingono. Certo. Evitare di esporre il bambino al sole, perché è chiaro che il colpo di calore è diverso dal colpo di sole, però se tu lo esponi la situazione si aggrava sicuramente. Quindi portarlo al mare proprio a luna, però poi non dire lo metto sotto l'ombrellone perché tanto c'è l'ombra, in ogni caso la temperatura è quella. Al mattino è meglio, oppure nel tardo pomeriggio. Io le vorrei dire questo, scusi se lo dico, perché mi baso sulla mia esperienza. Certo. E anche da casi vissuti. Io vi darei queste regole alle mamme in generale: non lasciare mai i bimbi dentro le macchine, perché purtroppo abbiamo avuto dei casi, alcuni casi anche drammatici, perché a volte i genitori o hanno anche loro il colpo di calore, escono, vanno al bar un attimo, chiudono il bambino nella macchina e poi se lo dimenticano. Purtroppo è successo. Sì. La seconda cosa importante che io dico in questo periodo, in questa stagione, perché come dire, si è un po' più confusi quando c'è caldo, la sicurezza in acqua non deve essere fondamentale, soprattutto queste piccole piscine ormai ce l'hanno tutti in casa, bisogna stare molto attenti perché poi sono è un attimo d'aiuto, come si dice, eh. Però il bambino rischia. L'altra cosa che direi, non lo esporre al sole, e poi una cosa che ho visto che hanno sottolineato i colleghi americani proprio di recente, hanno segnalato degli incidenti, quindi prevenzione delle cadute dalle finestre, cioè aperte finestre, si è stanchi, non si controlla il bambino, si è stressati dal caldo, le finestre non hanno quelle protezioni normali, e i nostri colleghi americani ci segnalano che ci sono stati diversi incidenti. Da noi un po' meno, però sono sempre segnali da tenere presente. Sì, anche solamente ne fosse capitato uno, professor Di Pietro, è un caso di troppo secondo il nostro giudizio. Recentemente ci è capitato, ecco, non dalla finestra ma da un terrazzo. Un bambino che era in piscina perché si è precipitato sopra una macchina, perché quindi succede veramente, ecco, bisogna tenere gli occhi molto aperti. veramente dobbiamo proprio tenere le antenne dritte in ogni modo in questo momento. Allora, Roberto da Pistoia vuole raccontarci cosa fa la notte per allietare il sonno della sua piccola. Quanti anni ha la sua bambina, Roberto? La mia bambina, buongiorno Deborah, buongiorno a lei, grazie, ha ragione, prima di tutto la buona educazione, non no, salutiamo. No, ci mancherebbe, la mia bambina ha un anno e mezzo, poco più, in questi giorni io faccio cose, non so se biologicamente, deontologicamente è corretta, però io ho l'impianto di aria condizionata in casa, tengo le finestre chiuse, una casa ben coibentata, quindi c'è un gran silenzio, però ecco, io la tengo anche nella stanza della bambina, la tengo bassa, io metto una temperatura di 27 gradi con una velocità bassa anche delle lenzuole, basso rumore, e la bambina si tiene sempre a portata di mano comunque il suo biberon, perché le dà sicurezza e comunque una sorsatina d'acqua la dà. Ecco, io non so se quest'aria condizionata sia questo demone, ogni tanto qualche medico ci dice, o se faccio bene a fare così, certo, perché se no si sveglia mezza bagnata e buon dormitore. Esatto, no, poi tra l'altro Roberto, grazie per la sua testimonianza, sentiremo il suggerimento del professor Di Pietro. Il tema è che poi le notti calde, professor Di Pietro, diventano bianche, no? Perché se i bambini non riposano, tutta la famiglia perde ore di sonno, ci si sveglia tutti stressati, per cui allora come rinfreschiamo le notti dei piccoli? Guardi, la temperatura di Roberto va bene, 27 sì, gradi? 24-26 gradi sarebbe, diciamo, l'optimo, se riesce a tenere quella temperatura. 27 lui è arrivato, sì, quindi anche un quanto pochino è arrivato? 27, quindi anche un po' più. Giusto, 24-26 è l'ideale, diciamo, ecco, è ben sopportata questa temperatura. E chiaramente fare un bel bagnetto con acqua fresca, soprattutto quando c'è molta afa, per cui i meccanismi di sudorazione sono ridotti, può essere utile prima di portare il bambino a dormire, soprattutto se lo si fa in modo tale che sia un gioco, sia un divertimento, creargli un ambiente sereno e soprattutto cercare di trovare, certo, una stanza il più possibile fresca. Questo è un punto importante. Allora, il caldo lascia anche dei segni sulla pelle tenera e morbidissima dei bambini, no? Capita anche a noi, perché pure a me ogni tanto il sudore sono fa queste sudamina, diciamo, quelle piccole. Ecco, lei lo mette brigoline lì l'accento, intanto sudamina, non la sudamina. Sì, sudamina, perché abbiamo quelle pustoline rosse, cioè che è la sudamina, è la reazione, il nome della reazione. Sì, sono un'irritazione della pelle molto specifica, però non va nemmeno questa sottovalutata, perché poi il bambino piccolo naturalmente si idratta e allora, dato che noi siamo pieni di germi, però stanno tranquilli, se un bambino si gratta poi questi germi possono prendere il sopravvento, allora si ha un'impetigine, cioè c'è un'infezione su questa pelle, per cui, come dire, quando si hanno queste sudate, diciamo, cercare di come dire, creare un ambiente fresco per il bambino, se ci sono delle cremine mettergliele, però sostanzialmente il problema più grave è se il bambino si gratta e si infettano, perché allora bisogna usare delle creme con dell'antibiotico proprio per evitare che poi si estendano queste infezioni. Di solito entro quanto rientrano queste pustoline rosse così fastidiose? Ma guardi, diciamo se si evita la sudorazione del bambino, lo si tiene il grattamento al sole eccetera, in poco tempo si riprendono, eventualmente si danno delle creme idratanti senza antibiotici, senza altro, le cose dovrebbero andare sicuramente al meglio. Il bagnetto con l'amido va bene? Il bagnetto con l'amido va bene, diciamo che anche il bagnetto senza amido sicuramente favorisce il bambino, questo il fresco da qualunque parte arrivi in questo momento aiuta sicuramente il bambino. Certo. Andiamo al mare, professor Di Pietro, abbiamo ancora un paio di minuti di tempo per gli ultimi suggerimenti di buonsenso. Allora, vabbè, le ore calde, evitiamolo. Ah, tra l'altro, quando c'è questa sudamina addosso, secondo lei il bagnetto in acqua di mare va bene? Ma no, si può fare, importante poi asciugare bene il bambino, vedere che non si sia infettato, l'acqua di mare non è proprio sempre pulitissima, per cui poi va fatto un minimo di igiene nella parte diciamo infiammata, ecco. E soprattutto quando si hanno dei sudami a non esporlo proprio al sole, ma io a questo punto al bagnetto a mare non rinuncerebbe. Ovviamente neanche dobbiamo dirlo quanta protezione dobbiamo proprio cospargerli completamente da cima a fondo i nostri bambini. Soprattutto nei bambini piccoli bisogna usare filtri molto elevati fino a 50 e poi eventualmente scendere fino a 25-30, però sappiate che effettivamente l'esposizione al sole fa male anche all'adulto, quindi ragione in più per il bambino, va fatta una protezione assoluta. Certo, non perdiamoli mai di vista. Comunque, detto questo, professor Di Pietro, dopo le raccomandazioni di buon senso, capita il caso di gastroenterite, no? Però la mamma molto spesso ritiene, ecco, ho un minuto di tempo, che il responsabile sia o proprio la botta di freddo magari presa all'interno del supermercato da aria condizionata, oppure questo passaggio dall'aria calda a quella fredda. Invece in realtà quando arriva la gastroenterite in questo frangente non è mai colpa del caldo, mi pare che voi diciate questo, ma in genere no, è un piccolo virus. Che... spesso è, diciamo che l'umidità, il caldo può favorire le cose, però le gastroenteriti sono sempre basate su cause o virali o batteriche. Quest'anno abbiamo visto che c'è stata una ripresa tra il mese di giugno e di luglio, soprattutto del rotavirus. Con questo abbiamo anche avuto alcune infezioni invece da batteri, tipo la salmonella, il campylobacter, però sono molto più contenute. Certo. Allora, certo, se potessimo evitare l'antibiotico in questo periodo sarebbe molto meglio. Per le forme virali l'antibiotico proprio non va dato. Nelle forme batteriche dipende da caso a caso, non sempre necessario. Professor Di Pietro, speriamo che tutte queste raccomandazioni siano state utili, lo saranno state senz'altro, grazie del suo contributo, ma soprattutto, insomma, che questo caldo se lo possano godere mamma e papà con i loro bambini e non soffrire troppo. Buona giornata e buona estate, professor Di Pietro. Grazie molto. Noi torniamo domani con Nicoletta Carbone, grazie a Marco Lombardi, Isotta Scena e ad Andrea Roccabella, adesso ce l'ho inciso qua in testa, scusami per prima. Ci sentiamo, buona giornata a tutti.